Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Uno dei temi ricorrenti in questa ultima stagione, sarà perché ci sono state delle importanti cambi legislativi, oltre ai cambi percepibili di costume corrente, è stato quello delle relazioni, dell'ufficializzazione delle relazioni che nascono, delle relazioni che si appassiscono e delle relazioni che finiscono. Quando finisce una relazione non semplicemente basata su un patto emotivo tra due persone, ma una relazione, certificata con atti legali, comincia un problema. Perché? Perché c'è il problema dell'attribuzione della colpa e della spartizione dei beni che si sono in qualche maniera messi assieme durante il periodo del matrimonio e della convivenza. Le novità in questo campo sono date dal fatto che oggi le nostre protesi emotive, che sono i nostri telefoni cellulari, che sono i nostri computer, sono gli strumenti che raccontano tutta la nostra vita, anche le parti indicibili della nostra vita. E quanto entrano a far parte di quella terribile e sanguinosa battaglia fra persone che si devono lasciare l'uso, l'abuso e il sopruso attraverso telefoni cellulari e computer? Lei leggerebbe i cellulari? Però se mi capita lì e leggo, sento un messaggino che arriva ed è lì che sto guardando, confermo. No, assolutamente. Come lui non deve leggere i miei. Cioè, è comunque una prova. Cioè, se c'è il fatto è un tradimento. O c'è fiducia e allora ok, va bene, il rapporto va bene, altrimenti se non c'è fiducia no. Personalmente mi fido e non vado mai a leggere il suo telefono. Non glielo vado ad aprire apposta, però se è lì e suona. Però penso che qualsiasi persona è portata a... Questa è una vox populi presa da Mattino 5. C'era stato un film, Perfetti Sconosciuti, poi ve lo faremo anche sentire, in cui c'è questo gioco perverso, fanno una sera un gruppo di amici strafighetti Roma Nord, in un appartamento di Roma Pratici, ma scambiamoci i telefonini, succede di tutto. Uno si accorge che la moglie è senza mutande perché il suo amante virtuale ha detto questa sera esci senza mutande, e gli fa alzare la gonna e senza mutande davvero. Un altro si ingroppava la moglie di quello, un altro viene scoperto che è gay. Insomma, nel telefono ognuno ha dei segreti indicibili. Avvocato Gianetto Regassani, buongiorno. Eccomi. Avvocato Gianetto Gassani, presidente LAMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ha scritto vari libri, l'ultimo Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, imprimato, reditore. Vediamo di capire un po'. Come cambiano le corna. Come stanno cambiando le corna, ecco. Ve ne state rendendo conto voi avvocati matrimonialisti? Beh sì, insomma, ogni giorno noi ci occupiamo di infedeltà coniugale. E sappiamo che appunto il cellulare è la scatola nera della nostra vita, cioè tutto, e che nel 60% dei casi le infedeltà si scoprono proprio col telefonino lasciato inavvertitamente sul comodino, e purtroppo dobbiamo rilevare che in questo momento il diritto alla riservatezza è finito. La Cassazione ha finito nelle coppie sposate. Per la coppia, non per i conviventi. Soltanto per gli sposati, perché la Cassazione chiarisce che il diritto della riservatezza viene sacrificato sull'altare del rapporto coniugale, per cui per scoprire il messaggio il incriminato per un cellulare lasciato così non costituisce il reato, pertanto può essere addirittura utilizzata quella prova in sede di separazione per ottenere l'addebito. Quindi il marito o la moglie fa lo screenshot, se lo autoinvia e poi va dal giudice con quello, è fregato. Assolutamente, lo facciamo tutti i giorni noi depositiamo in tribunale con tutte le mail che sono arrivate, che sono state scaricate prima. Ormai l'infedeltà coniugale o comunque l'infedeltà nella coppia è un fatto socialmente riconosciuto, cioè uomini e donne si tradiscono indistintamente. Ma come mai, scusa, il diritto non ne tiene conto di questo? No, ne tiene diritto, non solo ne tiene conto, ma addirittura ci sono due correnti di pensiero, secondo me schizofreniche, nel nostro paese. Cioè chi a un certo momento è indulgente verso qualsiasi forma di infedeltà coniugale, si trova sempre una giustificazione dietro l'infedeltà coniugale, per esempio che il rapporto era già stanco, erano già annoiati, cioè. Addirittura si arriva a condannare per un sms e si arriva a condannare addirittura la infedeltà virtuale, cioè quella che non fa seguito poi all'atto sessuale. Ecco, questo voglio sapere, facciamo degli esempi pratici. Tu da avvocato che conosci e visto le carte, sì. cosa basta per essere portati in tribunale? È importante che ci sia la prova di un flirt o comunque di un atteggiamento di chiara disponibilità. Cioè un cuoricino già basterebbe, No. Giallo che non è un cuoricino non basta. Quello giallo sicuramente no. Ci vorrebbe almeno tre rossi, va? Tre cuori rossi funzionano. No, a parte gli scherzi, ci vuole una diciamo così, una sul serie cetriolo di... Non c'è quello. Si può sempre, insomma, l'avvocato bravo riesce poi sempre in tribunale a dire sì, ma era uno scherzo fatto con gli altri. Quando invece ti dico ti aprirei come una cozza, oppure non vedo l'ora di vederti, ti farei questo e quell'altro, quando ci vediamo, ecco, una cosa di questo tipo indubbiamente è pericolosa. Io non posso mandare un messaggio a una collega scherzosa e mandargli dei cuoricini. Dipende dal contesto. Ci sono anche per esempio delle cose piccanti mandate a un'amica, ma che non hanno alcuna, non sono avanzo, lercissime, che ci mandano... Anche le donne mandano di tutto di più agli uomini ormai, ci sono i book fotografici. Per esempio ho dovuto fare una causa l'anno scorso nel nord Italia, c'era una moglie che aveva mandato tutto il book fotografico che avrebbe fatto invidia a Tinto Brass al suo amante. Il marito l'ha scoperto e devo dire che io ho convinto il marito a non produrre quelle fotografie, perché poi ci si sente un rispetto nell'altra parte, ma non esiste. Però questo fa capire l'impazzimento generale. Io nel mio libro Vi dichiaro divorziati, nel primo capitolo inizio: se aprissimo i cellulari degli italiani ci sarebbe una guerra civile. Rosa, pronto? Eccola, l'ascolto. Sì, ci sono, sento male. Allora, io niente, per caso seguivo l'argomento, non la trasmissione, mi seguo. Allora, e mi ha colpito in senso positivo questa sentenza, perché io ritengo, ma per un'esperienza che ormai ho vissuto un bel po' di anni fa, ecco, che è davvero opportuno ritenere che tutto quello che ci può essere dentro un cellulare, all'interno di una coppia sposata, intendo, e sottolineo questo, quindi di una famiglia, di un nucleo già formato, non si può più ritenerlo privacy. Perché? Perché mi è piaciuta anche una frase che avete detto poc'anzi, no? Cioè, tutta quella che è privacy viene sacrificata sull'altare. Cioè, signori miei, non bisogna scordarsi queste cose. Dovete pensarci prima. E non bisogna utilizzare tutte le scuse quando invece poi viene scoperto un atto di infedeltà volerlo farlo passare, ma no, c'era già la prima lacrisi. Perché di fatti invece quello è l'apice di una trascuratezza da ambie le parti, perché io poi faccio riferimento... Ma lei parla per esperienza personale, la sua veemenza lo certifica. Sì, però io adesso ho 51 anni... Ma lei come ha scoperto che suo marito la tradiva? Un ottimo dialogo... Rosa, come ha scoperto... Rosa, mi risponda, come ha scoperto suo marito la tradiva lei, col cellulare? Come? Come ha scoperto suo marito la tradiva? Come ho scoperto? Guardate, purtroppo di fatti all'epoca, torniamo indietro 20 anni fa, io i messaggi legati a degli atteggiamenti, perché poi devi leggere anche la chiave di lettura, devono essere anche i comportamenti, no? Non puoi basarti sul... Si asteneva dal debito coniugale, come era una volta, e uno capiva da quello. Avvocato Stefano Ricci, sì. Docente di informatica giuridica, esperto in privacy. Allora, mettere una password sul proprio telefonino comunque dovrebbe blindare dal fatto che uno ci metta il naso, anche se fosse il legittimo marito o la legittima moglie. Esatto. Un elemento fondamentale è quello della misura di protezione. Ma mettete un PIN e state tranquilli, ecco. Sì, un altro elemento fondamentale è il consenso, cioè nel momento in cui si è esplicito che non c'è un consenso alla condivisione di questo tipo di strumenti, e nella maggior parte dei procedimenti giudiziali che seguiamo questo è chiaro, perché marito e moglie si stanno separando, c'è un'alta conflittualità e cose di questo tipo, allora è chiaro ed evidente che uno agisce, come dire, in violazione rispetto al consenso dell'altro. Anche da questo punto di vista non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che è illecito accedere ad account. Cioè, se già volano gli stracci, non vale, non c'è via d'uscita. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? Capirai, a me lei non me lo darebbe mai il suo. Non è problema, lei. Ecco, tieni, prendilo. Ma che lo prendo sul serio? Prendilo. Lele, lascia perdere. Dagli tre mamma. Allora io esigo che tu lo prenda, però poi metti il tuo qua sopra. Capirai, ci troveresti dentro soltanto i messaggi del pediatra. Ah, e quelli di tua sorella, che mi chiedi di tua madre. Perché lo chiedi a te? Perché lo chiedi a te, Lele? Rispondi al telefono. E tu lo daresti il tuo a Cosimo? Figurati, io non ho neanche il PIN. Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo. Questo prima di scambiarsi i telefoni, non vi voglio fare lo spoiler, ma vi assicuro che ce n'è per tutti dopo, ma è sempre così, uno fa il grande, ma sì, guarda, figurati, se pensa di aver già cancellato tutto e tolto tutto, tutti hanno scheletro nell'armadio. Dario. Eccomi, buongiorno Nicoletti. Sì. No, a me è successo il contrario, in questo senso, io ho scoperto che la mia compagna aveva non una ma tipo 8-10 relazioni, in realtà non ho mai visto nulla delle relazioni, però mandava baci, ti amo, ti adoro, foto non vi dico come. A 8 persone? 8, sì, forse anche di più, io ne ho contato. Succede, conferma l'avvocato Cassani. Poi conferma. La cosa bellissima invece, scusate se vi interrompo, dico questa cosa, è che a un certo punto mi ero talmente intrippato che la cosa mi piaceva a me. Sattizzava, cioè, lei questa cosa. Vabbè, fate la coppia ideale. Siamo diventati complici, poi ci siamo lasciati per tutt'altro, per altri motivi che non c'entravano. Quindi lei era tutto contento? Beh, lo faceva per far contento lei. Sì, sì, bellissimo. Non c'è cosa migliore che il cornuto contento, lo vorrebbe chiunque vicino. Certo, certo. Massimiliano. Eccomi qui, buongiorno a tutti i Nicoletti, buongiorno avvocato. Io volevo portare la mia testimonianza, che poi tra l'altro stiamo parlando di un problema che poi alla fine possono diventare sventure. Ma mica per tutti, ha sentito, il suo collega ascoltatore poco fa era tutto contento. Lo so, però poi si sentono le cose al telegiornale, sa, meglio ricordarle. Vabbè, no, la mia testimonianza è una testimonianza particolare, sono stati tanti mesi che io sentivo vibrare quel maledetto cellulare, no? Della sua compagna, mia moglie. Sua moglie? Sì, lo sentivo vibrare. Ma quando? Tutte le ore, la sera, la notte, il giorno? Ma guardi, in vacanza, lo sentivo vibrare, non sapevo dove cavolo era questo cellulare. Due cose, o girava con un vibratore o aveva un telefono? Era chiaramente il cellulare polacco, no? Si chiama così in termini... È quel cellulare che si usa, diciamo, per... ed è stato un giorno un caso. Il secondo cellulare, diciamo. Sì, benissimo. È come i poliziotti che tengono la piccola pistola nascosta nel calzino. Infatti. E dove lo teneva il polacco sua moglie? Ma non lo so, perché è stato un caso che un giorno torno a casa, non c'era nessuno, e vado in bagno, torno a casa in un orario, non trovo la moglie nel letto, però trovo il cellulare nel bagno. Trovo il cellulare stranissimo nel bagno, e quindi dico, ma che cos'è questo cellulare? Pensavo fosse un cellulare di un idraulico che aveva lasciato lì. E comunque è quel cellulare, chiaramente, senza passo, sa, quei classici cellulari Nokia degli anni 80, sa, quelli là proprio SMS solamente. Solo SMS. Smartphone. Beh, è una professionista, devo dire. Ho acceso il cellulare, giù il mondo, ma è impressionante. Cioè, cosa ha capito? Vabbè, ma c'era di tutto, anche di tutto. Porno. C'era di tutto. Ma no, le foto no, descritte solo. No, foto no. Vecchio cellulare. Messaggi. Sono qui tutta nuda, immagini. Diciamo, da parte di lui soprattutto che... Sono qui con il mio obelisco di carne, queste cose classiche. Sì, vabbè, sì, tutte queste cose qui. Messaggi di appuntamento, messaggi dove ancora più grave, secondo me, lei prendeva praticamente a parolacce una... seconda, diciamo. Però Massimiliano, le posso dire una cosa, non a suo conforto. Se scrivevano tanto, trombavano poco, perché avvocato Cassani, la sua esperienza cosa le porta a dire? Insomma, la grafomania non è mai compagna di una sana clandestinità, penso, no? Devo dire che questi cellulari, soprattutto WhatsApp, sta ridisegnando il concetto di fedeltà e anche del livello di differenza tra uomo e donna. In effetti sono uguali ormai uomini e le donne. Fanno le stesse identiche cose, non accetto differenze di genere o moralismi. Alfredo, sentiamo Ricci. Alfredo. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, buongiorno, signor Nicoletti. No, niente, io siccome proprio ieri ho visto sul Libero con un SMS Melania Rizzoli, quella che citavo oggi, è la persona che ci ha aperto questa finestra sull'imponderabile. Benissimo, ma io volevo capire una cosa che non l'ho capita, cioè io sono separato da poco, cioè abbiamo finito la causa, io ho colto mia moglie in fragrante, cioè nel letto suo, vabbè. Col sorcio in bocca, come si dice a Roma, così. No, ma, no, voglio dire, in flagrante. Vabbè, la stessa cosa. In presenza delle forze dell'ordine, perché se ha letto, ha fatto irruzione con i carabinieri e l'ha trovata a letto. Benissimo, perché pensavamo. Ma lei sapeva che era lì. Pensavamo che c'era un intruso in casa, tipo ladro, invece. Intruso c'era. Un'intrusione c'era comunque in qualche maniera. Bene. Ma lei cosa sentiva? Dei rumori, delle urla? Ah, ti prego, lasciami così. No, è il classico. Uno esce per andare a lavorare, poi un errore, una cosa, ritorna e trova la mala sorpresa, purtroppo. Ma no, l'importante è come è avvenuta. Lei ha sentito dei rumori, ha chiamato subito i carabinieri. No, io sono riuscito nel rientrare, ho visto gente dal giardino, che delle ombre, delle cose, ho chiamato la Ma quanti persona. Erano? Quanti erano questi? No, era una persona, però ho aspettato prudentemente l'intervento della polizia, che non è... La polizia è entrata con le armi in pugno e cosa ha trovato? Com'era la scena? Senza armi, cioè, siamo entrati, abbiamo visto, abbiamo scoperto... No, ma importante è finire la ricostruzione. No, la ricostruzione è questa, che siamo entrati, solo cioè, siccome c'erano dei minori in casa... Niente, c'erano anche i figli in casa? Mi sono preoccupato, dormivano alle 5 di mattina... Voglio dire, mattina presto. I bambini nel lettino tranquilli, innocenti. Benissimo. E la mamma? No, quello che voglio capire, siccome si sta facendo adesso con un SMS, non c'è addebito. C'è l'addebito, perché con l'SMS. Io con questa situazione, il giudice, a me che io sto in Puglia, cioè mi ha detto che, ha scritto sulla sentenza, non che ha detto a me. Ha detto che non si può ritenere, non si può dare a debito per una volta, per un tradimento, per essere stata colta in fragrancia. Cioè Però aspetti un attimo, forse lei che ha visto oltre quello che c'era, magari stanno chiacchierando. No, abbiamo prodotto al giudice la relazione della polizia, dove diceva inequivocabilmente tutto il fatto, come cioè è nato una penetrazione a tutti gli effetti, crudamente, ma è così. No, ma doppia, perché io mi ritrovo con due uomini. Doppia nel senso, perché io adesso mi ritrovo fuori di casa a pagare gli alimenti ad aver chiuso la causa con questa sentenza dicendo che una volta il tradimento non è causa di addebito. Allora, mo leggendo ieri Libero, dove diceva che un SMS ha compromesso amante tutto e bla bla bla bla, ho detto mo sarà la giustizia, a parte che non ho più fiducia nella giustizia, per dirla proprio. No, è proprio vero, guardi, Alfredo, posso dire in questo momento, poi lei che ha subito veramente un affronto così grosso, cogliendo non si sa come, con un solo amante, un doppio tradimento, e è stato addirittura detto dal giudice che in realtà una volta, una tantum, non conta. Devo dire che in questo caso veramente non c'è giustizia, e chiedo appello a questo punto all'avvocato Stefano Ricci, che spero che non stia ridendo anche lui. No, sono serissimo. Chiaramente c'è un aspetto colorito. La storia raccontata dal nostro ascoltore è qualcosa di arcaico, di antico, entra con i carabinieri, sospettava e via dicendo. No, torniamo all'aspetto. Esisterà secondo lei un allargamento di questa sfera? Perché una volta stabilito il principio che in realtà questa nostra privatezza desse in qualche maniera limitata, non è che dovremmo riscrivere proprio i confini generali, quello che noi intendevamo vita privata? Senz'altro. La distinzione classica tra vita privata, vita pubblica, sfera privata, sfera pubblica, ma lo constatiamo tutti i giorni, non è più così netto, è estremamente permeabile. Quindi è evidente che siamo oramai entrati da anni in una nuova era, diciamo, questa era digitale, in cui il confine tra privato e pubblico deve essere completamente riscritto, deve essere completamente rideterminato. E non è tanto il pubblico che invade il privato, che era la preoccupazione successiva, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale, è piuttosto il privato che invade il pubblico. Esattamente questo è il punto, esattamente questo. Noi ci pensavamo ai grandi fratelli, ci ispirano i nostri governanti, ma no, in realtà è esattamente il contrario. Lentamente si erode questa nostra euforia che avevamo di avere un attrezzo in mano che, nel quale era possibile mantenere in memoria tutta la nostra vita emotiva. Sì, potremmo farlo, ma rendiamoci conto che non appartiene più soltanto a noi. Sentiamo Luca, Luca è interessante. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sì. L'ascolto. No, volevo dire che io mi sento in questo momento nudo perché la mia ex moglie, dalla quale sono separato, ha beccato in casa mentre ero via il mio telefonino, il secondo telefonino, quello con le cose nascoste, private, molto, molto, molto. Quello polacco molto si private. Chiama così? Come si chiama? Così? E come? Il telefono polacco, come lo chiamate? Non gli do un nome particolare, metto l'altro, diciamo. Dove è praticamente... Era quello della sua vita privata, diciamo. Molto privata, piena di cose. Vabbè, sono fatti suoi. A questo punto io mi sento... Non ho le prove del fatto che lei lo abbia fatto, però sicuramente conoscendo il tipo lo ha fatto. Ma lei perché l'ha lasciato in giro senza passo? Perché scusa. Me lo sono dimenticato. Era sotto carica, sono uscito di casa, sono tornato dopo 3 ore e ho visto sguardi e frasi... Cioè ha visto, ha capito tutto. Ho capito tutto e dentro c'era un mondo di cui sinceramente era molto privato. E come è andata a finire? Come è andata a finire poi? È andata a finire che non lo so, nel senso che in questo momento io mi sento come se fossi stato violentato da un certo punto di vista. Sì, e dal punto di vista legale non so se riuscirò a far ammettere questa cosa. Ma sua moglie ha già fatto gli atti, già portato tutto l'avvocato? Noi siamo già separati, però viviamo in una villa e... quindi eravate già separati, quindi ha scoperto il mondo che già sapeva, comunque niente di nuovo. Guardi, forse immaginavo qualcosa, ma quello che ha letto secondo me non lo poteva immaginare. E lei ci ride, ci fermiamo un istante soltanto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ed ora l'altra faccia della medaglia. Esistono delle forme alternative rispetto a quelle ormai entrate nell'immaginario generale, nella tradizione comune, per stabilire che due persone stiano assieme e debbano stare assieme per la vita, a meno che non si separino e poi cominciano i problemi già espressi anticipatamente in questa trasmissione. Diciamo che è un po' difficile oggi definire quello che è un modello naturale di unione. Ci sono battaglie, gente che si strappa le camicie, si butta per terra o sta ora in piedi a fare le sentinelle con un libro in mano per rivendicare il diritto di un'unione secondo le leggi naturali. Ma cosa dicono le leggi naturali? Esiste un modello naturale oppure esiste una maniera che si evolve a seconda dei tempi, a seconda delle circostanze spazio-temporali, a seconda del mutare delle economie, del mutare delle transumanze umane, del mutare della percezione dell'evoluzione dell'umanità, che fa sì che uomini e donne, ma anche animali da cortile, anche piante ornamentali, se decidono di passare un periodo emotivamente uniti, poi a un certo punto possono farlo nella più variegata e fantasiosa delle maniere e possono civilmente decidere che questo momento finisce per iniziare o nuove storie o nuove vite o un suggello di astinenza totale per tutto il resto della loro esistenza. Cosa posso dire a un mese di convivenza? Quali sono i pro e quali sono i contro? Allora, la cosa assolutamente che mi fa più piacere del convivere, del vivere insieme a Stefano, è il fatto che so che la sera ci si vede, so che la mattina ci svegliamo insieme, so che andiamo a dormire insieme, so che ceneremo insieme. È il fare le cose insieme, cioè è il poter dare per scontato, non in senso negativo, ma il poter dare per scontato che sicuramente una parte della vita in giornata la condividiamo. Quando si è fidanzati e si vive in posti, cioè in luoghi diversi, in case diverse, di solito quando uno si vede, o almeno nel nostro caso, è per fare qualcosa insieme, che è una cosa in realtà molto positiva, nel senso, stasera che si fa? Si guarda un film, io vengo a casa tua, te vieni a casa mia e si guarda il film. Stasera che si fa? Si esce a prendere una birra, allora ci vediamo a prendere la birra, eccetera. Però è anche bellissimo poter dare per scontato il fatto che oggi io ho da fare mille cose, svolgo tutte le mie cose, faccio, non lo vedo tutto il giorno, però so che stasera lo vedrò. Cioè so che stasera sarà qui, saremo qui. Dolce ragazza. quando questo che è al culmine delle tue aspirazioni diventerà la ghigliottina per ogni tua fantasia, ragionerai diversamente. Oggi vorremmo parlare di quello che significa stare assieme. Che senso date stare assieme? Alberto, buongiorno. Buongiorno. Cosa ha scoperto lei? Dopo 43 anni di matrimonio ci siamo tolti l'anello e abbiamo scoperto che possiamo convivere e continuare a stare insieme senza un legame formale. Sempre ma voi con due. Legami di fatto. Sempre voi due. Ecco, tutto qua. Legami di fatto. Siete diventata una coppia di fatto. Ma cosa è cambiato nella vostra vita? Fatemi capire. A parte l'anello, me lo sono tolto anch'io, mi si gonfiano le dita. Abbiamo capito che ci dobbiamo adattare sempre di più l'uno all'altro perché noi cambiamo. E questo adattamento, l'uomo è l'animale sociale più adattivo del mondo, no? Cioè sì, nell'adattamento che si trova la vita. Ci avete messo 43 anni. In che vi adattate dopo 43 anni state insieme a portarvi il pitale a vicenda? Scusatemi, ma qual è il non esageriamo. No, io lo dico per me, lo dico sulla mia pelle. Dopo 43 anni come cambia la vita? Ci adattiamo nelle piccole cose. Per esempio, sono andato in pensione da un anno e ho cominciato a stirare camicie, ad aiutare mia moglie che continua a lavorare, e ho scoperto nuova linfa in questo adattamento. Tutto qua, come atto d'amore, ecco, semplice. C'è una rassegnazione, vorrebbe no, dire. No, palle rassegnazione, cioè lo voglio fare. Cioè fare le stesse cose è contento? Come? Fa le stesse cose, sarebbe obbligato a fare, ma lo fa dicendo che è contento. Beh, lei la può vedere così, per me è una scelta. Beh, la scelta è quando c'è alternative. Qual era l'alternativa? L'alternativa era non condividere. E quindi farlo fare alla moglie di stirare le camicie? L'ho sempre fatto, ma adesso lei è più impegnata di me. E che deve fare? Le donne che incontro si meravigliano, ma che bravo, dico, no, io non sono bravo, io condivido. Ah beh, contento lei, che devo dirle, mi fa piacere, lei condivide, benissimo, però non siete una coppia di fatto, siete comunque, avete tolto l'anello, finisce lì, ma siete sempre sposati. Sì, per gli altri siamo sposati, per me condividiamo sempre più. Vabbè, ognuno, c'è la gente che va nei clubini strani, la gente fa i giri del mondo, chi si diverte così. Buon per lei. Gianetto Regassani, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Ci ho voluto iniziare con una nota di colore. Sì. Ti faccio sentire due telefonate, sì. Poi entriamo, perché come sapevo la gente è subito irritata, come se avessi sputato su un'immagine sacra. Renzo, buongiorno. Buongiorno, io non sono irritato, io volevo solo dire la mia opinione su quello che dice lei. A me sembra che sia abbastanza, scontato quello che dice. È logico che se due persone non vanno d'accordo, hanno qualche problema, è logico che si separano, ma dipende dal tipo di problema. Comunque è logico che se si vuole convivere insieme bisogna accettare anche i difetti dell'altro. Se uno si separa immediatamente, c'è veramente egoismo allo stato puro, perché appunto non si deve neanche mettere insieme una Scusi, persona. Egoismo rispetto a cosa? Egoismo rispetto a cosa? Perché una persona, se va a vivere con un'altra persona, è logico che deve rinunciare a una parte delle sue esigenze. Chiaro. per dividerle con l'altra. Chiaro. È logico che sia un vantaggio e se hanno degli svantaggi. Per cui alla fine mia moglie si è andata là, che io russi, però nel senso, non per questo ci separiamo. È logico che affrontiamo insieme gli argomenti, magari perderò peso anche contro il mio interesse, oppure mi piace mangiare, mangerò un po' meno per fare star meglio a lei, ma questo non è che mi vado a separare oppure devo separarmi se ci sono dei problemi. Renzo, ho 62 anni, ma mi pensa così ingenuo, così stupido che ci separa perché si russa? Ho semplicemente detto, mi fa veramente, mi offende pensare che io penso che per russare ci separa. Ho detto, se si notano già dai primi giorni di convivenza i difetti degli altri, in un momento in cui dovrebbe essere un idillio totale, attenzione, queste sono le cose, sono i campanelli d'allarme per cui una persona non la sopporti più. Quando ti accorgi dell'odore di una persona sgradevole, vuol dire che non la sopporti più. Quando ti dà fastidio che russa, non è carezzevole, non è una musica, non ti fa tenerezza, vuol dire che comincia a esserci qualcosa che crea delle terribili fratture nel rapporto. Ora, detto questo, la differenza rispetto a prima, che tutta la vita una donna sentiva le puzze del marito nel letto, diceva me le devo tenere perché così vuole il Signore. Oggi, al terzo giorno che gli dà fastidio, lo manda fuori di casa. Questa è la differenza. Roberto. Sì, buongiorno. Pronto? La sto ascoltando. Allora, lei prima, io sono un insegnante, permetto, di scuola superiore. Cosa insegna? Quale disciplina? Lettere, italiano, storia e geografia. Io insegno ai miei alunni, e penso che il mio insegnamento sia basato su dati scientifici, che la famiglia risale, non dico al neolitico, ma al paleolitico. Sì. E allora? Anche perché se non fosse così, lei capisce che non ci sarebbe la civiltà. Perfetto. Foscolo insegna. Sì, lei prima ha affermato parole testuali. Che io capisco. Vero, io capisco che lei voglia provocare perché la trasmissione ha questo stile. Però lei ha affermato parole testuali che la famiglia è un fenomeno recente. Come la intendiamo noi un fenomeno recentissimo? Questo è scientificamente falso. Allora mi fa parlare, professore, mi faccia parlare. La famiglia paleolitica, dice lei, fino alla famiglia diciamo medievale, fino alla famiglia rinascimentale, fino alla famiglia ottocentesca, fino alla famiglia dei primi Novecento, fino alla famiglia intesa, fino al 1945, era una gabbia e una prigione in cui le donne erano sottomesse, erano schiave, erano proprietà del marito, poteva fino a pochi anni fa anche ucciderle se aveva un motivo d'onore. È questa la famiglia a cui lei fa riferimento? Questo è il modello su cui dobbiamo... Le sto dicendo che scientificamente la famiglia esiste da alcuni milioni di anni, professore, da Homo habilis. Va bene. Studi un po' di grazie della lezione, professore, grazie. Io spero che i suoi alunni la sentano e prendano le giuste distanze, la sua maniera ammuffita di pensare e di riflettere. Gianettore Gassani. Ma la famiglia è cambiata, la famiglia non so quando se ci facciamo, si può collocare se ci facciamo la famiglia intesa nel senso generale, era un'organizzazione bestiale in cui l'uomo aveva intesa come branco è un conto, certo. Intesa come unione di una coppia non so francamente quando collocarla, ma certamente non esiste da milioni di anni. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Volevo dare una mia testimonianza della mia situazione. Dopo un lungo fidanzamento con la mia compagna, conviviamo insieme da 2 anni, e proprio su questo discorso di sopportazione reciproca, ogni tanto ha dei risvolti assolutamente drammatici, perché ci scontriamo sulle nostre abitudini, sul nostro ordine e disordine, e in questo mese che mi trovo da solo perché la mia compagna è all'estero per lavoro. Non le sembra vero? Sto benissimo. Grazie. È una meraviglia, è una pacchia totale. Ci sta rifacendo la bocca, lo so. È una pacchia totale e ho dovuto sistemare ogni sorta di delirio che mi aveva lasciato in casa, però respiro. Vabbè, adesso ormai l'avete messa su, mi auguro che può continuare a tenerla assieme alla persona che l'aiuterà a pagare il mutuo, se no se le cose vanno avanti così si ricerchi un'altra casa. Ci sentiamo fra un istante. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Francesco. Sì, buongiorno Nicoletti. La mia esperienza, adesso ho 65 anni, mi sono sposato la prima volta a 18, 10 anni di matrimonio, 5 anni di separati in casa, poi 10 anni di convivenza con un'altra persona, anche lì gli ultimi 5 anni convivenza forzata, l'ultimo convivenza con un'altra persona ancora successivamente di 10 anni con un matrimonio durato solo 1 anno, quindi adesso sto divorziando da questa ultima persona. Voglio dire, quando non sopporti più neanche come succhia la sigaretta, è inutile stare insieme. Vedo che l'ha messo in pratica questa cosa qua. Ha cambiato più volte, quindi sì, poi la mia naturale, siccome ho fatto 20 anni parrucchiera quando ero giovane. La parrucchiera fatto? Parrucchiera per signora. Ah, sì. Nel senso, da lì è nata la sicurezza che è meglio fare le corna preventivamente, tanto prima o poi ti capitano. Ma questo è l'altro tema. A non sopportare molto la sì, però scusi, fa una vita triste se far le corna corrisponde a stare poi sul divano e sopportare traffiche di persone inutili. In effetti sono passato molto tempo sul divano, ma questo non solo per colpa mia ovviamente, perché... Vabbè Francesco, mi piace aprire questi squarci di finestre sullo squallore domestico, però ci sarà anche qualcos'altro. Gianetto Gassani, se no non do senso al tuo essere qui. Ma io sto imparando tante cose. Queste fattispecie, però, queste testimonianze cosa ti rivelano rispetto alla disciplina che stai trattando, rispetto anche alle novità sui diritti civili? Perché... Ma credo che c'è una tale complessità. Mi manca il parere di una donna, sono tutti uomini. Allora, fermo un attimo. Sara, sì. Buongiorno. Ah, finalmente. Sara, buongiorno. Il parere di una donna. Ok, io sono un po' amareggiata da quello che ha detto, quello che ci ha chiamato prima di me, perché se deve arrivare a fare le corna in maniera preventiva, tanto vale che neanche si sposi, neanche vada a convivere. Sì, ma scusi, uno che passa la vita sul divano, le corna le fa con YouPorn, ma questo è logico, non è che... Vabbè, ma sono corna anche quelli, in un modo o nell'altro. E adesso esagerata, su. No, nel senso, nella vita secondo me di coppia non bisogna sopportarsi, bisogna supportarsi, può sembrare una cosa un po' da donna idealista dell'Ottocento, io sono una donna piuttosto, insomma... liberale per tutte quelle che sono le scelte della vita, nonostante abbia una vita di coppia che dura da più di 10 anni. 2 anni di convivenza, sono convinta che non serva un pezzettino di carta per fare un progetto e per mettere su famiglia. Il pezzettino di carta ti serve quando vuoi fare contenta la famiglia o quando ti servono tutte le legali. Se uno deve sposarsi 15 volte nella vita per fare le corna e per sentirsi infelice, tanto vale che si cerchi un coinquilino, no? Ma sì, ma infatti, ma io ho detto, quando dico si aprono squarci di squallore, di tristezza, è qualcosa di diverso. Poi ho detto una cosa giusta, Sara, vedi, da una parte c'è questo desiderio nascosto di uscita, di esplosione, centrifugo, apriamo, gettiamo gli argini. D'altra parte però, appena qualcuno stabilizza una situazione minimamente accettabile, subito vuole tutte le garanzie e tutti i vincoli. Questo è vero, tanto è vero che la legge che ha introdotto le unioni civili e in qualche modo ha regolamentato le coppie di fatto con i patti di convivenza, evidentemente vuole garanzie, vuole carta. Vuole pezzi di carta. L'ha detto Sara. E tutti vogliono il pezzo di carta. Ovviamente però non facciamo i conti con tantissime questioni, che probabilmente noi non siamo quelli di prima. Noi non riusciamo più a condividere un territorio. La casa è un territorio. Io conosco di separazioni e divorzi per il tap di un dentifricio non messo a posto. Non ho detto una stupidaggine, no. Quando dico solo le cose minime. Io ho scritto il mio libro, Vi dichiaro divorziati, in cui a un certo punto parlo della coppia all'inglese, dove in Inghilterra, per esempio, stanno cominciando a dormire ognuno nella sua stanza. Almeno c'è un momento di intimità anche all'interno della coppia che non può essere negoziabile. Il letto matrimoniale è il luogo più orrendo che possa esistere. Sì, sì. Soprattutto a una certa età, tra flatulenze, sudori, fastidi, russate, insonnie, televisioni accese al volume al massimo, calci, rantoli, voglio dire, quindi non tagliate queste l'uomo cose che escono, escono nelle carte processuali, non sono battute, sì, sì. Perché spesso quando presenti il ricorso e dici che lui non voleva curarsi perché russava, la signora è andata nell'altra stanza e il marito l'accusa di aver lasciato il letto matrimoniale, voglio dire, e sono delle questioni del quotidiano che noi sottovalutiamo e banalizziamo, ma che rappresentano degli scogli insormontabili, per cui anche l'avvocato a volte interviene per dire magari alla coppia, probabilmente siamo dei due russa sicuri, o attuate il sistema ognuno nella sua stanza. Avere una casa grande con tante stanze sarebbe... Ma poi è una questione anche di educazione diversa. Poi voglio dire, gli schemi sono cambiati, giustamente l'uomo deve collaborare, non si può più pensare all'uomo e la donna dell'Ottocento, lui che mangia col piede piedi sul tavolo e lei che fa i piatti in cucina e rassetta la casa. È cambiato. Molti uomini magari non sono più disposti, non sono mai stati disposti a fare questo. Questo, altri sì. Gianetto, come diceva il professore paleolitico prima, la gente ancora pensa che esista un rapporto di necessaria vessazione che suggelli il sacro vincolo del matrimonio. L'ho detto più volte e lo ripeto, io ricorderò ancora mio nonno professore universitario, mia nonna donna laureata, classe 1900, quindi avanzate dal punto di vista culturale, tutte le mattine vedevo uscire dalla stanza dei nonni la mia nonna col pitale pieno di mio nonno. Dice, il bagno è di fronte alla camera. Una scena che ho visto anch'io. È di fronte, perché il nonno non va a fare la pipì in camera e dei potagli? Era rassegnato. Una donna laureata, classe 1900. E poi tornava col caffè. Era normale per loro. Questo è il modello arcaico e questa è la cosa da cui bisogna, secondo me, scappare oppure tornare nella stanza e vedere la moglie con i bigodini e col cetriolo in faccia. O avere il marito che chiaramente ha problemi corporali. Voglio dire, dobbiamo cominciare a rendere serie le questioni e non pensare che questi sono discorsi di cui non parlare, perché molte volte la coppia scoppia non soltanto perché non ci si ama più, ma perché non ci si sopporta anche dal punto di vista fisico. Se si riesce a staccare un po' questo cordone tra i due, forse la coppia può andare avanti. Meno ansia di possesso e di necessario contatto. Ma siamo un paese di ipocriti, siamo i campioni del mondo dell'ipocrisia. Fermo un attimo. Maddalena, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che ero d'accordo con il suo collega, che almeno di notte c'è due persone dovrebbero dormire separate. In due camere, camere sì, separate, ma anche a distanza, sì, di sicurezza. Infatti, per esempio nel mio che convivo da 8 anni, lui mi dice che tutti i giorni, tutte le notti le do dei calci, dei pugni, o che faccio le puzzette che non me ne accorgo. Eh beh, quello le farà, sì. Scusi, perché le donne non le fanno, cioè questo tabù, le donne non le fanno. Ma come no? Le fa come noi, sì, no? Infatti, però si lamenta. Cioè, dopo... Eh beh, si lamenta, proverà a dire, cara... Almeno volgi l'oggetto della mia concupiscenza in questo momento particolare, sottoposto a una naturale necessità. Volgilo verso l'esterno del letto, non verso dove sta il mio naso che sta... D'altronde il letto è quello. Dopo, ma anch'io ho il mio elenco da lamentarmi. Lui si sveglia alle 3 del mattino accende la televisione. Bello questo, ma 3 volte a settimana. Cioè, almeno di notte abbiamo tutta una serie di elenchi tra lui e me, almeno di notte. Ma senta, lei lo ama questo scorreggione che c'ha nel letto? No, sono io praticamente. Lei scorreggione, ama quest'uomo che ha nel letto? Così. No, io lo voglio bene, anche lui mi vuole bene, due letti separati ci vuole. Ma due stanze, perché due letti non basta. Due stanze, ovviamente. Va bene, allora. D'altronde non c'è il posto, però... L'amore è un problema immobiliare. Gli inglesi hanno capito tutto. È un problema immobiliare. Se uno ha una stanza in più, si conserva l'amore. Se uno è costretto a dormire sempre nello stesso letto, a me l'amore naufraga nella flatulenza. Antonio... Buongiorno signori. Senta, a mia esperienza in pratica io sono una persona divorziata, sì, di 49 anni, da fidanzato con la mia ex moglie erano tutti rose e fiori. Io ero un motociclista, gli piaceva la moto, mi piaceva il mare d'inverno, gli piaceva il mare d'inverno. Sposati, scricchiolo un po' tutto. Le abitudini, quindi i piaceri del marito o della moglie diventano dispiaceri. Per cui io ho fatto i miei sacrifici matrimoniali, mi sono poi separato, ci siamo separati, divorziati, ho ricomprato la moto perché poi mi avevano indotto una bellissima rilievo. Per lui doveva rinunciare alla moto, non è amore, se una persona ti chiede di rinunciare a una moto, in nome suo, l'amore non è chiedere rinunce, l'amore è dire... Ti lascio libero di fare tutto ciò che ti piace. Lasciamo perdere le cose adulterine, che posso capirlo, che sono cose che non sono belle. Ma almeno la moto, almeno i divertimenti leciti. Se mi consente, le condivisioni in una coppia sono importantissime. Sì, ma manco indispensabili, perché... uno può anche non condividere, ecco. Condividere solo poche cose della vita, non deve condividere tutto. Se condividere tutto è un gemello siamese, è una qualcosa di appiccicoso. Mamadou dice che due persone, leggo dalla scheda, quando si sposano dopo qualche anno devono stare in camere separate per far durare il matrimonio. Quindi in Senegal, vedi Gianetto Regazzani, sì. Mamadou la dice che in Senegal è già legge quello che noi consideriamo una grande conquista. Sì, sì, sì. Dopo un po' di anni si sposa. Le donne senegalesi, gli uomini senegalesi devono dormire in camere separate. Ma Gianluca, quando vengono le coppie nel mio studio, lui o lei, noi facciamo una sorta di scheda, un'anamnesi d'ingresso, e tra le problematiche proprio che emergono, a parte la sessualità o la mancata sessualità, c'è proprio la incapacità di gestire la camera da letto e la casa. Credo che i corsi prematrimoniali dovrebbero servire, o comunque i corsi che servono in qualche modo dovrebbero servire a stare insieme, proprio a stabilire i momenti di spazio privato all'interno della casa, perché questo è fondamentale. Poi questo riguarda anche l'aspetto pubblico, sociale. Se a me non piace venire a vedere la partita della Roma o della Lazio, io non per questo ti proibisco di farlo o te lo faccio pesare, così viceversa tantissime altre cose, hobby, amori, diciamo, che la leggerezza dovrebbe essere la chiave fondamentale, prima ancora del sentimento, dell'amore, della passione, del senso di responsabilità, dovrebbe essere la leggerezza. Che leggerezza non vedo un ascoltatore che mi dice: Nicoletti, tu sei servo delle tue frustrazioni personali. Chissà perché uno è frustrato. Viva l'Italia. Quando invoca la leggerezza. Io invoco la leggerezza con tutti i miei limiti, i miei difetti, anche le mie frustrazioni. Chi non ne ha, naturalmente, non le confessa. A dopo, anzi a domani.